Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ho sete, mi odio che sete, mi verseresti ancora un sorso di petrolio per vedere se ci riusciamo a non restare a secco dal quinto al sesto piano, però quassù resisto. Buongiorno, avete appena sentito una canzone di un gruppo rock formidabile che si chiama Rain e si intitola Sul Tetto. Questo gruppo fa solo canzoni sulla sostenibilità, la tutela ambientale e via dicendo, le fa anche in chiave ironica e un po' satirica. La sostenibilità in ambito industriale è l'argomento che affrontiamo oggi. Il nostro ospite è Andrea Di Stefano del gruppo Novamont. Il gruppo Novamont è quello che fa le bioplastiche compostabili per quei sacchetti che adesso sono obbligatori e che sono biodegradabili. Lui ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Comunque, il concetto è che la sostenibilità non è una questione etica, una questione di principio, una questione di ecologia, ma è una questione che poi diventa un modello di business industriale, il quale poi produce utili. Cioè, la sostenibilità, giunti a questo punto culturale ed economico, è una cosa che fa guadagnare, vero dottor Di Stefano? Assolutamente sì, è un'opzione strategica di natura industriale, di natura economica, se si è in grado di sviluppare prodotti e processi che sono sostenibili, si ha un'opportunità e una leadership a livello anche internazionale, perché si è in grado di rispondere a delle domande assolutamente nuove. Questo è quello che succede alla Novamont, la quale produce le bioplastiche che si declinano in quei sacchetti che tutti noi odiamo perché si rompono subito, ma sono... Dipende come sono lavorati, non è colpa della materia prima. Ah no? No, non è colpa della materia prima. Ma poi fa anche tante altre cose che sono compostabili, vuol dire che tu le butti insieme ai rifiuti, per esempio fa le posate e i piatti per il catering, butti tutto via insieme ed è tutto smaltibile insieme, insomma, no? Sì, è tutto smaltibile, trasformabile in compost, che poi è una, sostanzialmente un terriccio di cui abbiamo e avremo sempre più bisogno, perché i dati dell'Unione Europea e dell'Agenzia per l'Ambiente evidenziano una perdita di nutriente del suolo e una crescita, un'avanzata della desertificazione in tutta Europa. Ah, interessante. Senta, ma come sta andando la Novamont? La Novamont sta crescendo mediamente del 15-20% per anno, non riesce a mantenere un livello molto alto di investimenti in ricerca e sviluppo, il 6,7% del proprio fatturato, è profittevole dall'inizio del 2000 ed è stata in grado di reinvestire, anche grazie ai suoi investitori, tutti gli utili nello sviluppo di nuove attività industriali, di nuovi impianti, con una filosofia un po' diversa, che è quella di cercare di recuperare quello che c'era di disponibile a livello di territorio nella manifattura italiana. Questo avviene anche per quell'impianto industriale che voi a settembre inaugurate ed è per la produzione di butandiolo, ed è un impianto a Bottrighe, vicino ad Adria, nel Rodigino, zona notoriamente depressa. E insomma è un investimento importante per voi anche in termini occupazionali, ce lo racconta un po'? Sì, è un investimento importante, viaggiamo oltre gli 80 milioni di euro per recuperare un vecchio impianto per la produzione di lisina per il settore alimentare. Cos'è la lisina? La lisina è un intermedio nella produzione alimentare che veniva realizzata appunto a Bottrighe da una multinazionale giapponese che 6 anni fa ha chiuso l'impianto, i lavoratori erano tutti in cassa integrazione. Novamont ha acquistato quello che era rimasto, quindi l'impiantistica precedente, ha riutilizzato il 60% dell'infrastruttura industriale, ha aggiunto un 40% di grande innovazione tecnologica, biotecnologica, e a settembre partirà a pieno regime un impianto per la produzione di biobutandiolo, che significa ottenere un intermedio chimico dalla fermentazione attraverso batteri geneticamente modificati degli zuccheri. Questo permetterà di ricreare una settantina di posti di lavoro in una zona che tradizionalmente purtroppo ha difficoltà economiche e occupazionali storiche, perché è un'area depressa della bassa Veneto. Ecco, voi avete 7 impianti con questo, di cui 4 sono fabbriche, no? 4 sono fabbriche, vere e proprie fabbriche, vecchi impianti prevalentemente dell'industria chimica italiana. Siamo nati a Terni all'interno dell'area Montedison, quindi siamo partiti da un piccolo impianto pilota del gruppo Montedison. Il vostro amministratore delegato e fondatore Katia Bastioli, tra l'altro, è umbra e lei è di lì proprio. È umbra, è di lì, ma la scelta dell'impianto è casuale, perché è stata una scelta legata all'epoca a Ferruzzi Tecnologie, quando Novamont non era ancora un'impresa ma era un centro di ricerca del gruppo Ferruzzi. Ecco, dicevamo comunque, proseguiamo il discorso, che è interessante. Poi, dopo Terni, che è il polo principale di produzione industriale della Novamont, c'è l'impianto di Patrica in provincia di Frosinone. È un impianto ex Mossi Ghisolfi, che produceva PET, aveva dimensioni troppo piccole, è stato trasformato e oggi è l'impianto che produce poliestere biodegradabile per tutto il gruppo. Comunque, quello che Novamont, i nostri ascoltatori devono avere chiaro, è che la Novamont, che è un pioniere mondiale, non produce i sacchetti o le stoviglie compostabili, produce il compost che poi viene venduto. Produciamo la materia prima. Sì, la materia prima, scusate, che poi viene venduta a quelli che fanno quelli i sacchetti. A quelli che trasformano e quindi fanno le posate, fanno i sacchetti. Anche le parti consumabili degli pneumatici. Anche le parti biodegradabili, non una funzione di biodegradabilità, ma un filler che si inserisce nei pneumatici e che abbassa la resistenza al rotolamento. Comunque, il discorso della sostenibilità, io devo dire, a me è sempre stato antipatico. L'ho ritenuto odioso, perché normalmente da giornalista la sostenibilità era o un modo di fare delle pubbliche relazioni d'accatto, facendo quei report di sostenibilità che arrivano in redazione ancora incellofanati, finiscono direttamente nel cestino, oppure una forma di propaganda aziendale che tra l'altro è stata raccontata molto bene in un bellissimo libro di Michela Marzano, la filosofa, che nel 2009 ha scritto Estensione del dominio della manipolazione, un libro di Mondadori che vi consiglio, perché proprio la manipolazione del linguaggio aziendale riferito alla vita privata. Infatti il titolo in francese era Extension du domaine de la manipulation de l'entreprise à la vie privée. L'estensione del dominio della manipolazione, scusate il mio francese che è pessimo e non lo parlo, dall'impresa alla vita privata. Quindi un modo per manipolare tutti noi, facendoci credere che l'impresa ha fini diversi da quelli che in realtà ha, adottando un linguaggio che fa in modo che i fini dell'impresa vengano assorbiti e metabolizzati da tutto noi, oppure una propaganda d'accatto. Poi vedi queste figure un po' mediocri, un po' verdi, un po' sinistroidi da 4 lire che si mettono in testa queste robe. Declinata in ambito economico e soprattutto in ambito chimico, è invece, può essere invece una cosa seria. Ma che cos'è, secondo lei, la sostenibilità? Diciamo che dal nostro punto di vista la sostenibilità è ridisegnare processi e prodotti per ridurre il consumo di risorse e per rendere meno impattante il consumo di prodotti finiti. Quindi è un processo di, se vogliamo definirlo così, di efficientamento che ha al centro l'impatto ambientale. E che poi porta anche a una generazione di valore economico per l'azienda? Assolutamente sì. Perché? Porta a una generazione economica perché questi prodotti sono e saranno sempre più domandati in un'era nella quale i costi esterni prodotti dal consumo stanno diventando sempre più onerosi. Per esempio l'energia per lo smaltimento. Per l'energia per lo smaltimento, le discariche, gli impianti di smaltimento dei rifiuti. L'Unione Europea sta definendo un vero e proprio pacchetto nuovo, tutto sull'economia circolare, che è finalizzato. Cos'è invece l'economia circolare? L'economia circolare è appunto considerare la sostenibilità un'opportunità economica e quindi per esempio fare in modo che quelli che oggi vengono considerati rifiuti non riciclabili possano diventare nuove materie prime per i settori industriali in moltissimi campi, e questa è un'opportunità molto interessante in particolare per un paese come il nostro che è privo da sempre di materie prime e quindi della possibilità di giocare sulla leva delle commodities. Invece, qual è la differenza tra sostenibilità e sviluppo sostenibile? Sostanziale, perché è rilevante, perché la sostenibilità appunto è alla fine un ripensamento, una riflessione strategica sul proprio business. Lo sviluppo sostenibile è stato per lungo tempo un mantra, un po' uno slogan di rendere compatibile il business tradizionale, as usual, con l'impatto ambientale. Bene, dobbiamo interromperci per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Marta Cagnola, vi aspetto con il Sabato del Villaggio ogni sabato alle 15. Sono Daniele Bellasio, poi alle 17 arrivo anch'io, provo a rovinarti l'ultima ora del Sabato del Villaggio con Radio Cube. I liberi consigli per il fine settimana e tutto il meglio e il peggio della rete tutti i sabati alle 15 su Radio 24. Bye bye Europa? Londra decide, dentro o fuori. Il 23 giugno il Regno Unito decide se rimanere nell'Unione Europea o lasciarla dopo 43 anni. Comunque vada, il referendum britannico ha già prodotto un terremoto che scuote il progetto europeo. Fino al 25 giugno, Radio 24 vi racconta come si è arrivati a questo punto, chi rischia di più e cosa accadrà dopo il voto. Fabbrica 2.4. Ho sete, mio Dio che sete, mi verseresti ancora un sorso di petrolio per vedere se ci riusciamo. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4, oggi parliamo di sostenibilità, per cui la nostra piccola colonna sonora è questa canzone che si chiama Sul tetto del gruppo Rain. Il nostro ospite col quale stavamo parlando prima è Andrea Di Stefano del gruppo Novamont, famoso gruppo pioniere della chimica italiana perché sono quelli che realizzano la materia prima per questi sacchetti biodegradabili fatti in ambito di mais. Sacchetti che dicevo prima un po' tutti noi detestiamo perché si rompono, infatti io prendo le borse di plastica inquinante e robusta e me le tengo in macchina e poi alla fine li butto anche quelli, li metto anzi dove c'è la raccolta indifferenziata, così scasino tutto. Però speriamo che non ci sia qualcuno del comune di Milano che poi viene a vedere nel mio condominio che cosa faccio. Naturalmente io do la colpa agli altri e anzi mi indigno. Torniamo a Di Stefano, Novamont. Come sta andando? Qual è lo sviluppo futuro di Novamont? Anche alla luce del fatto che voi avete come azionista Versalis, il gruppo chimico dell'ENI. Versalis ha investito molto in voi. Versalis, tra l'altro, è la principale azienda chimica italiana che non solo vi ha comprato una parte importante del capitale, ma si è contaminata di voi, diventando a sua volta un'azienda attiva nella realizzazione di bioraffinerie, nella produzione di prodotti bio, e quindi voi dovevate essere la leva di modernizzazione di questo colosso che credo che faccia 4-5 miliardi. Ora il governo italiano se lo vende e a voi che succede? A noi assolutamente nulla, nel senso che non abbiamo un impatto da questa operazione, nel senso dei piani di sviluppo e i programmi di Novamont. Siamo in attesa di capire quali saranno i riflessi più che altro per Versalis e se gli acquirenti vorranno continuare nella strategia. Gli acquirenti sono un fondo, no? Il fondo? Così dovrebbe essere, in fondo SK Capital, ma qui siamo puramente nella cronaca giornalistica perché che è il nostro mestiere. Elementi finali non ce ne sono da questo punto di vista. Comunque vada, allo stato c'è una, assolutamente una roadmap Novamont che non verrà impattata dalle scelte di Versalis. L'auspicio, ma per motivi più che altro di natura industriale e di posizione diciamo di leadership italiana in questo campo, è che si mantenga questa volontà di investimento sulla chimica verde, che ci permette di essere davanti ad altri competitor e ad altri paesi. Certamente. Su Novamont, ecco una breve scheda. Fondata e diretta da Katia Bastioli, manager e ricercatrice con una lunga storia Montedison alle spalle, Novamont è un'azienda leader a livello internazionale nelle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti che vengono ottenuti grazie all'integrazione di chimica, ambiente e agricoltura. Il prodotto più noto di Novamont è il Mater B, materia prima derivata dall'amido di mais, tapioca, patate e grano, è divenuta famosa perché serve a produrre i sacchetti biodegradabili e compostabili. Sacchetti che nella grande distribuzione hanno obbligatoriamente sostituito i vecchi shopping bag in polietilene che recavano enormi danni all'ambiente. Il Mater B ha diverse altre applicazioni. È il caso, per esempio, della produzione di teli per la pacciamatura, cioè la copertura delle coltivazioni orticole, ma anche della fabbricazione delle parti consumabili dei pneumatici e della realizzazione di piatti e posate per il catering, che poi si possono buttare via insieme ai residui di cibo, restando ugualmente compostabili. Recentemente, in collaborazione con Lavazza, Novamont ha brevettato capsule compostabili per macchine da caffè. 7 grammi di caffè vengono racchiusi in un contenitore destinato a trasformarsi dopo l'uso in anidride carbonica, acqua e compost. La capsula può essere raccolta con il rifiuto umido e avviata al compostaggio industriale, dove insieme al caffè esausto viene riciclata in compost con cime naturale per i suoli. Novamont, che è nata nel 1990, ha un giro d'affari di circa 170 milioni di euro e fa lavorare 600 dipendenti. Solo nel 2015 le assunzioni sono cresciute del 9%. Il 20% del personale viene impiegato in attività di ricerca e sviluppo, nelle quali viene reinvestito il 6,7% del fatturato. L'azienda è proprietaria di oltre 1000 brevetti. L'azionista di maggiori dimensioni è Versalis, la società chimica del gruppo Eni, che ha sviluppato alcune joint venture con Novamont. Tra gli altri azionisti figurano il top management e Banca Intesa. In Italia Novamont è presente con la sede di Novara, lo stabilimento produttivo di Terni, nel quale viene prodotto il Mater B, e il centro ricerche di Piana di Monteverna, in provincia di Cesena. Tra le partecipazioni vi è Matrica a Porto Torres, Sassari, progetto di bioraffineria integrata con il territorio, Mater Biotech ad Adria, Rovigo, con un impianto per la produzione di biobutandiolo, Mater Biopolymer, grazie ad un impianto per la produzione di poliesteri da oli vegetali, e infine Syncro, joint venture paritetica con Coldiretti, per sviluppare in Umbria una produzione di intermedi da fonte rinnovabile. Rieccoci in linea con Andrea Di Stefano di Novamont, nonché teorico di queste cose, forse anche perché è un ex giornalista, dirige anche il mensile Valori e ha avuto lontano passato a Repubblica, e quindi è una persona anche capace di spiegarsi. Ecco, dopo aver parlato di Novamont, vorrei ritornare a questo concetto di sostenibilità, che sembra conveniente anche perché è attrattiva per gli investitori. I fondi etici che investono in aziende sostenibili ci sono già da anni. Ma adesso lei mi faceva notare che sono scesi in campo anche gli investitori istituzionali. Sì, la grande novità, credo rilevante, e di cui forse l'industria italiana non ha ancora percepito le opportunità e i rischi, è che i grandi investitori istituzionali, i grandi fondi di investimento, pensiamo, non so, per tutti il fondo pensionistico norvegese, che è uno dei più grandi in termini di asset gestiti, hanno deciso di investire in modo consistente sulla sostenibilità, soprattutto dopo la COP21 di Parigi. Quindi cos'è la COP21 di Parigi? La conferenza sul clima, quella che si è tenuta a novembre dello scorso anno a Parigi. Ci racconta che cosa è successo? È successo che in quella sede alcuni grandi investitori istituzionali hanno aderito a questa iniziativa di disinvestimento dalle fonti fossili, una scelta strategica, perché il disinvestimento dalle fonti fossili vuol dire favorire lo sviluppo di attività e produzioni a più basso impatto ambientale e una parte di conversione dell'industria verso appunto le risorse rinnovabili e verso una compatibilità che permetta poi alla fine di perseguire quel risultato che era quello di mantenere il potenziale incremento delle temperature a 1,5 gradi nei prossimi anni. E certo, perché poi i sacchetti e tanti altri prodotti che vengono sostituiti dalle bioplastiche, non va dimenticato che sono fatti col petrolio, che così come avviene per il packaging alimentare. Su innovazioni e food packaging è stata fatta una ricerca della SDA Bocconi che dimostra come quasi tutto il packaging alimentare, cioè le vaschette con le quali noi avvolgiamo la carne, il prosciutto e quant'altro, possa essere fatto da bioplastiche. Questo le sembra interessante? Sì, è un'opzione interessante. Abbiamo lavorato assieme al club Carta e Cartone, quindi all'industria del settore cellulosico italiano, per indagare quali sono le opportunità in questo campo, cioè quali sono le opportunità di un abbinamento tra cellulosa e bioplastiche che permette ovviamente di mantenere completamente biodegradabile e compostabile il prodotto finito, in particolare nel food packaging, che è il campo dove altre forme di riciclo è più difficile. Sono campi di azione che possono permettere migliaia di tonnellate di applicazioni e un impatto molto rilevante in termini di riduzione degli sprechi e dei rifiuti indifferenziati. E questa, dal nostro punto di vista, per questo la ricerca è nata con questo obiettivo, dimostrare che a livello industriale c'è un'opportunità per il sistema paese Italia anche di leadership a livello internazionale. Certamente, tra l'altro un nuovo traguardo rifiuti zero se lo è posto Unilever. Sì, è la dimostrazione che questo trend non è più, come sottolineava lei, solo un'operazione d'immagine con tutte le implicazioni negative del caso, ma è una scelta strategica, viene da alcuni grandi gruppi industriali. Unilever ha annunciato una sfida, un piano molto sfidante in termini di riduzione delle emissioni e addirittura di rifiuti zero, cioè vuole riuscire entro il 2020 a sostituire tutte le sue soluzioni di packaging affinché siano soluzioni tutte completamente con bioplastiche. No, non necessariamente, ecco, solo con bioplastiche. Tra l'altro, sulle bioplastiche io ho sempre avuto una curiosità. Ma siccome è una cosa mondiale, ma a fare la materia prima per le bioplastiche ci siete solo voi? Ma a fare assolutamente no. E allora ci qual sono... è la vostra, come Novamont, qual è la vostra, il panorama dei competitor? Qual è il panorama dei competitor e che cosa vi distingue rispetto a loro? Allora, il panorama dei competitor è molto vario e in crescita. Abbiamo competitor tedeschi, francesi, americani. La differenza forse più rilevante è il rapporto con il territorio. Noi pensiamo a delle bioraffinerie che possono avere le risorse, le materie prime raccolte a livello territoriale, quindi attraverso la coltivazione o l'utilizzo di scarti agricoli, e invece i sistemi, diciamo, di produzione oggi sul mercato sono molto tradizionali, con approvvigionamenti da qualsiasi Purtroppo parte. Il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere. Ringrazio Andrea Di Stefano. A voi, grazie molto per l'invito. E agli ascoltatori dico arrivederci domani, ore 13:15.